d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Diego Nardin racconta Fope, gioielli innovativi dal 1929, di Mattia Venini. Oggi raccontiamo la storia di Fope, azienda orafa nata nel 1929 a Vicenza, cuore pulsante della produzione orefice italiana, dove Umberto Cazzola apre un piccolo laboratorio artigianale con una ventina di dipendenti. In oltre 90 anni, passando da generazione in generazione, l'impresa è arrivata a fatturare 35 milioni di euro grazie alla vendita dei suoi gioielli in tutto il mondo. Ma prima degli anni 70, il core business di Fope era la produzione di cinturini di metallo estensibili, come racconta l'amministratore delegato Diego Nardin. Fope è un'azienda storica che è nata proprio qui a Vicenza, dove siamo oggi, nel 29, a opera di Umberto Cazzola, il nonno dell'attuale presidente, che rappresenta la terza generazione. È un'azienda orafa, nata appunto negli anni difficili, che si è sviluppata via via, cresciuta fino ad oggi, diciamo dal laboratorio del nonno Umberto, poi dopo varie step si sono susseguiti. Fope è il nome che abbiamo dagli inizi degli anni 70, fabbrica orafa preziosi esportazione. Prima di dedicarsi completamente alla produzione di gioielleria, la Fope era fornitore per grandi brand di orologeria, produceva le casse, i cinturini, quindi era un apprezzatissimo fornitore anche dei brand svizzeri, quindi della Fope è sempre stata apprezzata l'altissima qualità e serietà nella produzione. Nata durante l'epoca del fascismo con il nome FICM, Fabbrica Italiana Cinturini Metallici, dopo la Seconda Guerra Mondiale il laboratorio diventa un'azienda più strutturata sotto la guida di Odino, figlio del fondatore Umberto. Con l'ingresso della terza generazione Cazzola con il figlio di Odino, Umberto, l'azienda comincia a produrre i propri gioielli, fino ad arrivare al 2007, vero momento di svolta per Fope, grazie alla realizzazione di un prodotto innovativo, un bracciale in oro elastico. Un grande momento di svolta si è avuto dopo gli anni 2000, dove quando Fope si è imposta nel mercato della gioielleria, si è imposta con una maglia particolare che ha un design caratteristico che ci rende molto riconoscibili, la maglia Fope, e si è diffusa in Italia e poi nel mondo, e questo è stato sicuramente un momento di grande interesse e di grande espansione, dove la Fope ha costruito le basi per diventare quello che è oggi. Diciamo che è stata una grande intuizione dell'attuale nostro presidente, e che ha ripercorso anche un po' quanto era stato fatto in passato nella Fope. La Fope per un periodo ha lavorato producendo dei cinturini elastici per gli orologi, per grandi brand di orologeria, e un po' ricordando il successo che quei cinturini fecero in altre epoche, riprese il concetto e propose questo nuovo modo di indossare i bracciali, quindi un nuovo modo di vestire e di provare l'oro. Nella nostra maglia siamo riusciti a inserire delle micromolle di oro che hanno reso il bracciale elastico. Subito dopo la svolta, però, arrivano i problemi. La crisi economica del 2008 colpisce anche il settore orafo e di conseguenza anche Fope. La famiglia Cazzola, però, nei momenti di difficoltà, continua a investire in nuovi strumenti e tecnologie e riesce in pochi anni a uscire dalla crisi e addirittura a crescere. La parola a Diego Nardin, amministratore delegato di Fope proprio dal 2008. Io sono amministratore delegato dal 2008, sono stato testimone evidentemente di un momento di mercato difficile che ha interessato tutto il nostro settore per alcuni diversi aspetti che hanno colpito la nostra economia italiana, ambiti internazionali di difficoltà. Fope ha affrontato in maniera decisa questo momento, ha riorganizzato i propri ambiti e è riuscita con tenacia a superare questo momento di difficoltà, innestando poi dopo una crescita che si è manifestata dal 2014-2015 fino ad oggi, che insomma abbiamo mantenuto dei tassi di crescita interessanti. Sicuramente in questa ricerca di superamento dei momenti di difficoltà e di affermazione di mercato, l'innovazione tecnologica che la famiglia imprenditrice ha sempre messo in pista è stato un elemento fondamentale. Innovazione tecnologica, noi siamo riusciti a coniugare la grande abilità dei nostri mastri orafi che producono, finiscono i nostri gioielli con grande sapienza, no? Con questo processo molto particolare, ma abbiamo affiancato a questa manualità altissima tecnologia. Questo ci ha reso efficienti nella produzione, ci ha consentito di superare appunto momenti di difficoltà e di proporre anche dei prodotti che il mercato ha apprezzato molto. Così come accade per tutto il settore dell'oreficeria italiano, anche per FOPE la maggior parte del fatturato deriva dalle esportazioni. I principali mercati di riferimento dell'azienda sono l'Europa e gli Stati Uniti, mentre per questioni strategiche non vengono percorse le vie asiatiche. Più dell'80% del nostro fatturato è sviluppato sui mercati esteri. Noi siamo presenti sostanzialmente in ogni parte del mondo, ad eccezione dell'India e della Cina, per una scelta strategica di non seguire oggi questi mercati. Veramente abbiamo negozi in Australia, in Sudafrica, in ogni dove. I nostri mercati principali rimangono però l'America e l'Europa. I mercati europei, con in testa sicuramente la Germania e l'Inghilterra, dove siamo molto apprezzati. Riguardo gli investimenti strategici sui mercati, dobbiamo considerare che le aziende devono fare i conti con le risorse che possono mettere in campo, per cui negli ultimi anni noi abbiamo deciso di fare investimenti significativi in quelli che erano i mercati che a noi davano maggior soddisfazione, come dicevo prima, l'America e i mercati europei. La Cina, alla quale non stiamo guardando in questo modo, richiede investimenti molto complessi e sofisticati, e per questo in questo tempo non la consideriamo. Nonostante l'apertura di negozi e boutique in tutto il mondo, il cuore pulsante di FOPE è rimasto legato al territorio, alla città di Vicenza, dove la famiglia Cazzola ha iniziato e dove continua a investire, come spiega l'amministratore delegato Diego Nardin. La nostra sede, che è qui in città a Vicenza, ed è la sede dove produciamo tutte le nostre collezioni di gioielli. Sono ideate, disegnate, prototipate e poi prodotte nella nostra sede di Vicenza. Il centro pensante e produttivo dell'azienda rimane a Vicenza. Sempre l'imprenditore ha voluto rimanere a Vicenza, non delocalizzare la produzione anche in anni dove forse si sarebbero potute ottenere delle economie utilizzando mercati asiatici per la produzione di qualche particolare. Invece l'imprenditore ha voluto sempre investire in tecnologia, come dicevo prima, ma aumentare l'efficienza, ma mantenere la sede a Vicenza e lavorare con le persone e le famiglie vicentine. Ora che l'azienda è ormai una realtà internazionale, le sfide nel futuro di FOPE si chiamano sostenibilità e nuove generazioni. La prima è una condizione di mercato ormai necessaria. Per la seconda, invece, l'azienda ha aperto canali di social network per attirare i clienti più giovani. Noi siamo certificati RJC, è una certificazione che interessa al nostro settore dal 2014. La sostenibilità è un po' nelle nostre corde, perché la nostra produzione ha sempre avuto una grande attenzione nei confronti dell'ambiente, quindi una produzione non inquinante, e poi di nuovo l'imprenditore ha sempre avuto cura dei luoghi di lavoro e delle condizioni in cui i nostri colleghi lavorano. Continuiamo ancora in questa direzione, ancor più oggi che la sostenibilità sta diventando non soltanto un impegno di pochi imprenditori, ma una condizione di mercato per cui devi necessariamente essere sostenibile. Ho letto recentemente un'indagine molto titolata dove si diceva che il consumatore è disposto a pagare il 10% di più del prezzo quando sa e conosce che il prodotto è stato realizzato in maniera sostenibile, quindi sicuramente paga la sostenibilità. Il nostro futuro è il futuro delle nuove generazioni. Le nuove generazioni sono molto più sensibili di noi rispetto ai temi dell'etica e della sostenibilità. Noi ci prepariamo per incontrare i millennial e quelli che fra qualche anno diventeranno nostri clienti. Noi cerchiamo di entrare in contatto con i nostri futuri consumatori, e in particolare con i canali social. Noi facciamo delle attività, abbiamo aperto dei canali social e quindi cerchiamo di dialogare, colloquiare con quello che è diventato il canale principe per interloquire con le nuove generazioni. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.